farmi rispettare io. Per la patria, la famiglia e Dio. E mia madre bella si farà, perché un figlio al servizio della libertà. E tu che cosa fai? Fermati un po', le mani su. In tasca che cos'hai? Coltello e poi siringhe sporche. E negro dove vai? Se cerchi guai, guarda qui. Il manganello c'è, raddrizzerà schiene storte, pervertiti, portoricani, froci e banditi. Esattamente un anno fa esordivo qui su Radio Pazza con il mio spazio Radio Prisma e con il mio primo podcast, il primo in assoluto, nato quasi per caso grazie al mio istinto, e così neanche pensavo lontanamente che sarei mai stata pubblicata. L'avevo solo fatto così per giocare, con mezzi di fortuna, non avevo nemmeno ancora il software per creare e confezionare un vero podcast. E sto parlando appunto della mia puntata 70.000 tanto, e ho deciso così di autofesteggiarmi per questo mio primo anniversario di Radio Podcast con una seconda edizione di 70.000 tanto, quindi tanta buona musica, almeno spero, che voglio condividere con voi, tutta diciamo legata a quel decennio che ha per me un fascino straordinario. e quindi ovviamente sono qui, diciamo, un po' grazie alla mia alla mia incoscienza, alla mia smania per comunicare e condividere musica, e grazie anche a Buck e Grex di Radio Pazza che mi hanno comunque pubblicato, quindi dimostrando una volta per tutte di essere dei veri pazzi, perché solo giusto dei pazzi potevano pubblicarmi. E ringrazio ovviamente il mio, diciamo, tra virgolette, maestro Buck, che mi ha, diciamo, in qualche modo segnalato i vari software che potevo utilizzare per dare, diciamo, un minimo di professionalità a quelli che invece erano degli esperimenti miei casalinghi, che mai avrei pensato avrebbero mai visto luce. Quindi vorrei annunciarvi il primo brano di questa mia selezione di oggi, e ho voluto fare un bis, nel senso che la mia prima puntata di Radio Prisma l'avevo aperta con Alberto Radius, il suo bellissimo pezzo Che cosa sei. Questa volta ho voluto iniziare sempre con lui, ma con un brano del 79 intitolato Poliziotto. Non è un mistero che in questo 2009 ne abbiamo viste delle belle in questo nostro odiato e amato stivale. Il mio spirito polemico l'ho lasciato un po' dormiente, anche perché sono stanca di questa mia continua rabbia che non trova sbocchi concreti nel reale, perché sono stanca dell'ideologia fine a se stessa, sono stanca di chi fa il tifo, di chi alza barricate e senza nemmeno rendersene conto non fa altro che perpetrare i giochi di potere decisi nella stanza dei bottoni. Quindi continua a comportarsi come una marionetta, credendo di sollevare una bandiera che in realtà non fa altro che aumentare le distanze fra noi, che invece dovremmo unirci al di là di certe ideologie per il bene comune, quindi andare al di là di vecchi steccati che hanno portato soltanto odio e guerre fratricide. Bene, detta questa leggerezza per cominciare la puntata, vorrei proseguire con un brano sempre sulla scia delle forze di polizia, dell'atmosfera dei film poliziotteschi di quegli anni, con la colonna sonora curata, diciamo, dagli Osanna per un film chiamato Milano Calibro 9. Thank you. Stupenda questa evoluzione finale con questi suoni quasi robotici che concludono degnamente un pezzo veramente ben articolato che crea istantaneamente nella mia mente delle scene, delle immagini, mi proietta quasi senza nemmeno chiedermelo in un'atmosfera notturna, le luci dei lampioni, una periferia urbana, i manifesti strappati, le buche nel marciapiede, pochi passanti misteriosi. E poi c'è questa alternanza tra gli archi e i suoni più potenti, sferzanti, tipici del rock progressive. Non ne so molto io della musica di quegli anni, so soltanto quello che mi comunica, diciamo, a pelle, a fior di pelle, queste vibrazioni che sento e mi lascio trasportare da queste, quindi lungi da me ogni tentativo di erudizione sulla musica, non sono assolutamente un'esperta, non vi aspettate questo da me, infatti sono un po' una speaker sui generis. Come dico sempre, l'istinto è il mio pilota automatico, per cui lasciamo che faccia tutto lui e io non me ne lavo le mani, per carità, però mi lascio guidare, spero di guidare anche voi in questo mio percorso di scoperta, perché in realtà io sto scoprendo questa musica anche un po' insieme a voi, quindi stiamo imparando insieme. Ma Milano non era soltanto quella delle calibro 9, quella degli scontri di piazza, delle stragi, dei coprifuoco, dei carri armati e di tutto ciò che ha rappresentato per l'Italia degli anni 70 quella speranza di poter sovvertire l'ordine costituito. Milano può essere anche una scelta di vita, quindi un qualcuno che si trova per motivi di lavoro a cambiare città e quindi in questo caso vorrei dedicare questo pezzo che si chiama Milano alla mia cara amica Fly, che sono sicura apprezzerà, e lui è Stefano Rosso dal 1975. Mi ricordo un pugno d'anni fa, per lavoro venni su a Milano e qui dentro mi è rimasta un po', ma che strano. Frequentavo Piazza Gramsci e lì incontrai Teresa e si capisce, con l'idea una volta e poi la cosa finisce. Ma finisce a cena con la pizza, a incrociare coi problemi il vino, e anche l'uomo allora sembra un po' piccolino. E finisce che da una pensione tu ti trasferisci e poi un mattino, ecco, ti ritrovi a far la spesa con Teresa. Lei non piange fame quasi mai, sempre in tasca pronti due gettoni e un pacchetto di sospiri per i polmoni. Io qui invece non ce l'avo più, e poi questa neanche è casa mia, meno male manca un mese e poi si va via. Ma finisce che non parti più, non lo dici ma così è più vero, e anche l'uomo torna più imponente e più austero. Ma finisce che non parti più, che i tuoi sogni erano esagerati, che le sante guerre le han rubate i crociati. Mi ricordo un pugno d'anni fa, per lavoro venni su a Milano e ci ho sempre visto pochi gatti, che strano. Finisce che ti trovi al sole con tuo figlio che insegue un pallone, mentre sotto i baffi l'uomo ride, sornione. e finisce che la vita è là, dove la tua mano si è posata, dove ti ritrovi a far la spesa con Teresa. Mi ricordo un pugno d'anni fa, per lavoro venni su a Milano e mi dissero brutta città, ma che strano. E rieccoci qui dopo aver ascoltato questa Milano di Stefano Rosso. Io sono sempre DJ Prisma, questa è Radio Pazza e sto conducendovi all'interno degli anni 70, all'interno della mia piccola rubrichina 70 mila tanto, numero 2, all'interno di Radio Prisma. Dice: quante ce n'hai, quante scatole cinesi? No, no, tutto molto semplice, radiopazza.blogspot.com se volete venirci a trovare. E Stefano Rosso mi ha fatto pensare anche a un altro caro amico, che è il blogger Fabio del blog Einbahnstrasse. Ricordo tempo fa dedicò un appassionato intenso post a questo artista scomparso di recente, e quindi un pensiero va anche a Fabio. E quindi abbiamo sentito come, ecco, le strade di Milano diventano poi la casa per una persona che nemmeno immaginava lontanamente che un giorno la sua vita si sarebbe stabilita lì. E di questa Milano di cui si parla tanto male, anch'io sono stata un po' vittima, no, di questi pregiudizi nei confronti di quella città. E Fly, la mia amica, non me ne vorrà, ma è grazie a lei che sto cominciando a ricredermi. Lei so già che storcerà il naso, dirà: te l'avevo detto, tutti così fate. Però ammetto che quando sono salita su ultimamente per andarla a trovare, prima della partenza per il ritorno nella capitale, mi sono trovata nell'attesa a fare un giro da sola in un posto per me quasi magico, che mi ha trasmesso delle strane vibrazioni. Ok, non sono una strega, però la pianto con questa storia delle vibrazioni. Comunque, a parte gli scherzi, un posto per me magico di Milano è il Castello Sforzesco. Sarà che sono stata fortunata, ho trovato giornate di sole insolitamente, visto che Milano si dice sempre che è grigia, che c'è la nebbia, tutto quanto. Però quella mattina lì mi sono fatta questo giro in questo castello meraviglioso. Ve lo consiglio, se vi capita, di farvi un giro lì con l'iPod o quello che sia, un lettore cinese, MP3, quello che sia. L'importante è abbiate della buona musica e lasciatevi trasportare dai suoni, muovetevi senza una direzione precisa lì dentro e vediamo che cosa ne esce fuori. E da Milano possiamo passare alla Stoccolma di Rino Gaetano, un altro mio amore di quegli anni. E questo pezzo invece lo vorrei dedicare a un caro amico, un amico mio, che per Stoccolma o giù di lì stava quasi per andare a finire in terre nordiche. Il vento e le deviazioni della vita l'hanno portato da tutt'altra parte, quindi quello che conta è, caro amico mio, mordi la vita e goditela. Quindi questo è per te, Rino Gaetano. Si potrebbe andare a Stoccolma, tutti insieme andiamo a Stoccolma, tutti insieme, ma con calma, sulla nave che porta a Stoccolma, donne bionde con fiori e ghirlande, tanti dischi, tante bande. Dai, andiamo a Stoccolma, dove se mangi stai colmo, dove potrai dire con calma: io sto col, a sto col. Salmo, quindi andiamo Sì, grande Rino, non mi stancherò mai di dirlo. Non è un mistero il mio amore per questo cantautore. E magari qualcuno gli avrà anche dato dell'esterofilo, del disfattista all'epoca, chissà. Mi ricordo, a proposito di un altro pezzo, non te regge più, una patetica intervista fatta da Maurizio Costanzo in cui il suddetto presentatore sottoponeva Rino a una sequela di domande tentando di smontarne l'ironia. Il grandissimo Rino, se vi capita cercatevelo su YouTube, che teneva testa benissimo alle domande insidiose. E mi ricordo c'era anche una Susanna Agnelli che, divertita, dimostrava molto savoir-faire nei confronti di Rino Gaetano, che l'aveva anche nominata appunto nel testo della canzone. Ma tornando a Stoccolma, appunto, ancora oggi possiamo dire che non è cambiato un granché, anzi forse è andata peggiorando la situazione, visto che appunto Rino Gaetano molto carinamente dice: siamo, noi viviamo nella melma. Io direi no, diciamola tutta, viviamo nella merda. E guardava con occhi, diciamo, sognanti a un mondo più evoluto, più avanzato, sicuramente una cittadinanza più consapevole dei propri diritti. Mea culpa, lo faccio prima di tutto a me stessa, e anche dei propri doveri. Quindi tutto ciò si rispecchia in una società sicuramente molto più avanzata, sicuramente più capace di guardare al futuro, che non si rinchiude in un passato cieco e ottuso, che in realtà nasconde un voler dimenticare la storia, perché fondamentalmente siamo molto bravi noi a soffrire di amnesia per gli eventi anche di un passato recente. Mi riferisco a tutte quelle volte in cui i nostri politici si autoriesumano e continuano comunque a mandare avanti le loro situazioni personali, cambiando nome, cambiando faccia all'occorrenza, come cantava qualcun altro, ma tutto sommato i risultati sono dati di fatto. Ecco, qui non voglio prendere né posizioni né nulla, datemi della qualunquista, ne vado fiera, non me ne frega un bene amato. Io quello che guardo sono i fatti mi dicono che nel nostro paese ancora oggi ci sono gravi carenze strutturali, cioè scarsa attenzione nei confronti dei beni culturali, si disinveste nella scuola, che è la base primaria per un futuro, e chi più ne ha più ne metta. E se ti lamenti, ecco che cosa ti viene risposto. Ci pensa il grandissimo Piero Ciampi, toscanaccio doc, con Andare, camminare, lavorare. Andare, camminare, lavorare. Andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo a lavorare, andare, camminare, lavorare. Il vino contro il petrolio, grande vittoria, grandissima vittoria. Andare, camminare, lavorare. Il meridione rugge, il nord non ha salite, niente paura. Di qua c'è la discesa, andare, camminare, lavorare. Rapide fughe, rapide fughe, rapide fughe. cos'è questo fuoco? Pompieri, pompieri, voi che siete seri, puntuali, spengete questi incendi nei conventi, nelle anime, nelle banche. Andare, camminare, lavorare. Queste cassaforti, che infernale invenzione. Viva la ricchezza mobile, andare, camminare, lavorare. Andare, camminare, lavorare, lavorare, lavorare. Andare, camminare, lavorare. Il passato nel cassetto chiuso a chiave. Il futuro al tuo calcio per sperare. Il presente per amare. Non è caso di scappare. Andare, camminare, lavorare. Andare, camminare, lavorare. Dai! Lavorare! Nutriamo il lavoro. Ale. Gli agnelli a pascolare con le capre, fra i nitriti dei cavalli, questi rumorosi, vigilati tutti, la truppa di pastori, andare, camminare, lavorare, niente paura, azzurri, azzurri, attaccare, attaccare, attaccatevi a calci nel sedere, calciare. La domenica tutti sul bordoio a pedalare. Lavorare, pedalare. Lavorare. Con i contanti. Nell'osteria con i contanti, con tanti, tanti, tanti, tanti auguri agli sposi. Andare, camminare, lavorare. La penisola in automobile, tutti in automobile al matrimonio. Ale, la penisola al volante. Questa bella penisola è diventata un volante, andare, camminare, lavorare. E questo era il grandissimo Piero Ciampi, che con questo pezzo non le manda certo a dire: se vi capita, dateci una letta, perché c'è veramente tutto. C'è il passato chiuso a chiave in un cassetto, il futuro al totocalcio per sperare, il presente per amare, non è il caso di scappare, perché attenzione, non sia mai che si fugga all'estero. Anche se poi a volte, spesso, sembra quasi che rimanga l'unica cosa da fare, quando tutti i tentativi di trovarsi una collocazione in questa società ormai corrotta dall'interno sembrano fallire contro un muro di gomma. Qualcuno diceva della mancanza di trasparenza da parte delle istituzioni. In effetti, visti i fatti recenti e non, comincio a credere anch'io che ci sia qualcosa di vischioso, di impenetrabile per la cittadinanza. E il lavoro quindi sembra quasi, no, essere spesso additato come la molla che deve risollevare la società, che deve portare fuori dalla crisi, quindi produrre, far circolare la moneta, spendere e consumare. E l'amore come unica salvezza. Sentiamoci questo brano, intitolato Vorrei incontrarti, che è data 1972, non vi dico l'interprete, l'autore, perché vorrei lasciare tutto alla sorpresa. Vorrei incontrarti fuori i cancelli di una fabbrica. Lungo le strade che portano in India. Vorrei incontrarti, ma non so cosa farei. Forse di gioia io di colpo piangerei. Vorrei trovarti mentre tu dormi in un mare d'erba. Mostrarti i ricordi di quello che la statua di quello che io sono adesso. Vorrei conoscerti, ma non so come chiamarti. Vorrei seguirti, ma la gente ti sommerge. Io ti aspettavo quando di fuori pioveva. Sarà piena di silenzio per te. Quanti di voi hanno riconosciuto la voce di Alan Sorrenti? Ebbene sì, era proprio lui, quello di Figli delle Stelle, di Tu sei l'unica donna per me, le sue hit successive, la prima del 77, l'altra del 79, con cui addirittura vinse il Festival Bar. Non tutti sanno, io compresa, che prima di quelle sue hit commerciali lui aveva avuto un inizio, diciamo, di rock progressivo e sperimentale, in cui la sua vena autoriale era molto più intimista, molto più legata a tematiche importanti. Quindi qui, anche se si parla d'amore, comunque si ritrovano le tematiche sentimentali, c'è comunque riferimento anche alla fabbrica, alla massa di gente che sommerge la sua amata, e i silenzi, tutto il non detto che fa tappo e che coagula. E io sono rimasta sinceramente molto stupita nello scoprire questo lato di Alan Sorrenti che non conoscevo. E a questo punto, per proseguire sulla scia del rapporto di coppia sentimentale, vorrei proporvi invece un brano strumentale dei Goblin, italianissimi Goblin, molto più conosciuti per la loro Profondo Rosso, colonna sonora famosissima del film di Dario Argento. Questa invece è un'altra colonna sonora da un film che ancora non ho visto, onestamente. Il nome del brano è Both Two ed è la colonna sonora appunto del film Amo, Non Amo del 1979. Thank you. Mamma mia, meravigliosa questa musica che sale dentro e cresce come una marea, lavando via l'inquietudine, la malinconia, i brutti pensieri, e ti fa pensare con grande nostalgia a un decennio che in realtà non hai neanche mai conosciuto davvero, perché io sono nata nel 1980. E come sempre dico, per me quel decennio è come un vaso di Pandora, infilo la mano nel baule e non so mai cosa trovo. E penso anche con grande nostalgia che avevamo dei musicisti davvero con i controcazzi, perdonatemi il termine. Magari ne abbiamo anche oggi, ma forse all'epoca erano, non so, magari più, godevano di un'atmosfera diversa, diciamo, magari le case discografiche rischiavano di più. Non c'era quel vortice del business ad uso e consumo immediato che permetteva comunque agli artisti di andare avanti anche se il primo disco non aveva realizzato delle buone vendite. Non so cosa, ma mi fa un certo effetto scoprire che stranieri su internet, poi questo diventa ancora più evidente, creano dei fan club o dei siti di commemorazione o comunque dove promuovono la nostra musica italiana di quegli anni, quando noi per primi, mi ci metto in mezzo prima io, neanche ne conoscevano l'esistenza. E perciò mi piace condividere con voi queste mie scoperte, che sono per me veramente speciali. Anche questo brano dei Goblin mi fa subito venire voglia di chiudere gli occhi, immaginarmi distesa su un prato d'erba senza nessun tramite tra me e la madre terra. Inizio in solitudine a contemplare il cielo, poi chiudendo gli occhi e riaprirli, ritrovarmi tutte le persone care a fianco, tutti gli amici, gli amori, le persone che mi hanno trasmesso qualcosa, sperando, ecco, di essere sempre unite e di poterci sempre trasmettere, diciamo, quell'energia positiva che è sempre continuamente messa a dura prova in questo brutto momento storico del 2009, ma che poi alla fine sono soltanto stupide convenzioni particolaristiche. In fondo, quale epoca può davvero dirsi perfetta? Ogni epoca ha avuto le sue problematiche. Ma a proposito di prato e di stendersi su un prato, wow, una sincronicità pazzesca, perché in questo momento avete assistito in diretta all'arrivo di un SMS da parte di una persona amica che evidentemente inconsciamente deve aver sentito questo richiamo all'amicizia e all'energia positiva che ci lega. Comunque andiamo avanti e vorrei leggervi a questo punto alcune parole. Sotto la coperta di foglie che l'autunno stende, sui sentieri stanchi, cosa c'è? Passi, solo passi, abbandonati. Ora sono protetti da un amore strano intorno a te. Danza con dolcezza il tuo grano, sei coperto d'oro, d'oro del gran sole. Mi chiedo, ma perché? Riconosco il cuore mio nelle ali di un gabbiano, mentre respirano, mentre si impigliano, mentre si innalzano su nel blu. Se gli occhi sono lucciole amiche, ci vedo nel buio. Svanisce la paura che avevo, di notte, del nero. Ormai, se mi perdo nel bosco, non sono più solo. Se gli occhi sono lucciole amiche, ci vedo nel buio. Se gli occhi sono lucciole amiche, ci vedo nel buio. Io e me. Blocco mentale. We'll be right back. sotto la coperta di foglie che l'autunno stende sui sentieri stanchi. Cosa c'è? Passi, solo passi, abbandonati. Ora son protetti da un amore strano intorno a te. Danza con dolcezza il tuo grano, sei coperto d'oro, dono del gran sole, mi chiedo ma perché riconosco il cuore mio nelle ali di un gabbiano. Mentre respirano, mentre si impigliano, mentre si innalzano su Wow, che splendore questa armonica bocca finale, questo bluesaccio che ti scorre nelle vene senza un vero perché, soltanto per l'amore della musica. E questi appunto erano i Blocco Mentale, io non li conoscevo, ma mi ha subito incuriosito il nome, Blocco Mentale, che insomma non ne sono molto... molto esente dai blocchi mentali, anzi, e anche il titolo del brano Io e me mi è risultato subito simpatico. Chi mi legge sul blog insomma immaginerà anche il motivo. Io sono sempre DJ Prisma, questa è Radio Prisma, la puntata speciale 70.000 tanto volume 2 per festeggiare il mio primo anno a Radio Pazza, sempre finché non mi cacciano via quello schifiguri di Buck e Grex. A parte gli scherzi, siccome ho tanta voglia di condividere musica anni 70 con voi, durerà un pochino di più del normale, quindi sto già navigando verso l'ora, ma pazienza, dovrete sopportarmi ancora un altro po'. Dopo questo pezzo blues tutto italiano, vi vorrei proporre un altro gruppo italiano che sto imparando a conoscere, e si chiamano I Raccomandata con ricevuta di ritorno. A quanto mi risulta hanno fatto due album in uno, cioè il primo e l'ultimo, e ho scelto per voi questa Sogni di cristallo. Sì. Totale sconvolgente psichedelia questo pezzo dei Raccomandata con Ricevuta di ritorno. Wow, mamma mia, che trip mentale, non so voi, ma io ho decisamente viaggiato e mi sono venute in mente alcune parole così che non ho neanche appuntato, le lascerò fluire spontaneamente, istintivamente. Qui si può chiedere a un gabbiano di smetterla di volare con quella perfezione, con quell'equilibrio, perché la sua vista ci fa rabbia, ci ricorda quanto la nostra gravità ci inchiodi al nostro destino mortale, banale, mediocre. No, non sarebbe giusto. Staremmo meglio forse, sì. Ma quella è la sua natura, e per quanti improperi, per quanta invidia, per quanta rabbia si possa scagliare contro di lui, non potrà farne a meno. Non potrà. E anche se il richiamo verso l'immondizia lo attirerà sempre, non è raro vederlo aggirarsi nelle spiagge deserte d'inverno a rimestare con il becco gli avanzi del consumismo umano, beh, nonostante questo, la perfezione è dentro di lui e continuerà a stordirci, a inchiodarci alla nostra banalità con il suo volo, con il suo volo di gabbiano. Premiata Forneria Marconi, appena un po'. cosa si può dire dopo un pezzo del genere? Niente, solo un inchino e un silenzio pieno d'ammirazione, pieno di gioia per questo godimento acustico, ma non solo, proprio ogni cellula del mio corpo ha goduto con questo pezzo. Appena un po', dicono, premiata forma dei Marconi, appena un po' di coraggio, come prima di un salto nel vuoto, prima di cambiare vita, anche non solo concretamente, anche partendo da noi stessi, no? Da quello che vogliamo essere nei confronti nostri, prima di tutto, nei confronti del mondo che ci circonda, quindi anche della società. E allora ti ritrovi a chiederti il perché di certi incontri più o meno casuali, di certe affinità, di certi affetti che comunque ti ritrovi a provare per persone da cui non ti aspettavi nulla di tutto questo. Ed è dura a volte capire che bisogna andare oltre al particolare, al qui ed ora, al contingente. Dice, che sta dicendo questa? No, sto dicendo una cosa che sto cercando di ottenere soprattutto da me stessa, cioè la capacità di non pensare a una finalità immediata degli incontri con le persone, degli interscambi sociali, quindi non so, quindi al miglioramento immediato della mia vita di tutti i giorni. C'è anche quello, ovviamente, ma non solo. A volte forse questo stringersi fra noi, fra persone affini, va visto come finalizzato a un bene superiore, no? Una specie di armonia universale, un riversare energia positiva per fare da contrasto all'imperante negatività, all'opportunismo, all'ipocrisia che regna sovrana, all'accumulo, la tendenza al fregare il prossimo. Ecco, da queste negatività è difficile difendersi da soli e quindi bisogna fare scudo, cercare di legarsi il più possibile a coloro che hanno dei valori, ma per valori non intendo i classici valori da bacchettone, intendo la voglia di costruire qualcosa insieme, un mondo migliore ma non utopistico, qualcosa di reale, quindi a partire, diciamo, dal nostro piccolo. E questo vuole essere un invito a me stessa, a tutti coloro che soffrono nel proprio ambiente sociale quotidiano di una mancanza, diciamo, di riscontro con quello che è il proprio mondo interiore e quello che invece si ritrovano a vivere quotidianamente. È un tema comune a molti, soprattutto più si è sensibili e più si percepisce questo scarto tra dentro e fuori. Ed è quello di non volere a tutti i costi sfondare un muro che non si può sfondare, ma di aggrapparsi con tutte le nostre forze alle energie positive che siamo in grado di produrre in interazione con altre persone, senza per questo necessariamente far sì che questo debba coincidere con una quotidianità concreta. Ma per esempio a me pensare che ci siano persone anche lontane da me fisicamente che però lottano, diciamo, con energia per i propri desideri, mi fa stare già meglio, perché mi fa venire voglia di andare avanti. Ma questo vuole essere, diciamo, un modo per incoraggiarci a resistere, a non mollare. Sono sempre, come al solito, iperlogorroica, quindi direi che a questo punto ci sta tutta Voglio di più di Pino Daniele, che in realtà non è uscito come brano, come album negli anni 70, bensì nel 1980, ma è stato registrato dalla fine del 79 e quindi io lo considero comunque un pezzo figlio degli anni 70. E il titolo, appunto, Voglio di più, Pino Daniele. Io che ho visto terra bruciare, la gente che mi entrava in casa, io che ho visto tutto, ci sono vero. Ho visto un uomo e una campana stare insieme a gridare per ore. Ieri ho visto il mare, oggi sono stanco, ma voglio di più di quello che vedi, voglio di più di questi anni amari, sai che non striscerò per farmi valere, vivrò così cercando un senso anche per te. Ed ho visto prestare le mani solo in cambio di un po' di rumore, mentre a sud il caldo t'ammazza e voglia di cambiare, cambiare. Ed ho visto morire bambini nati sotto un accento sbagliato, ieri mi sono incazzato e oggi sono vero. Ma voglio di più di quello che vedi, voglio di più questi anni amari, sai che strillerò per farmi valere, sarò così sempre pronto a dire no, no. Ma voglio di più che vedi, voglio di più di questi anni amari, sai che non striscerò per tanti colore, tiro così cercando un senso anche per te. Grande pezzo questo di Pino Daniele, mi emoziona moltissimo sia per le parole che per la chitarra elettrica che in qualche modo sembra gridare lo stesso dolore, però sommesso, senza clamore, un dolore dignitoso, che è un po' quello che si prova noi della generazione di trentenni o quasi trentenni in questa fine del 2009 col 2010. Che ormai incombe davanti comunque a un mondo che in qualche modo ci siamo un po' ritrovati e un po' siamo ormai disillusi dal poter cambiare. Eppure nonostante questo si continua a sognare, magari ci si chiude in noi stessi e si immagina un viaggio alato. E chi di voi conosce il testo saprà già qual è il brano con cui chiuderò la puntata. Quindi, visto che siamo abbondantemente quasi arrivati a un'ora e mezza di trasmissione, io intanto vi comincio a salutare, vi ringrazio per il vostro paziente ascolto, visto che sono sempre logorroicissima, spero comunque di avervi insomma potuto intrattenere piacevolmente. Se vorrete, insomma lo sapete, ve lo dico sempre, lasciate un commento su radiopazza.blogspot.com. Se volete scrivere a me, DJ Prisma, ho creato una mail apposita, è djprisma, tutto minuscolo, punto radiopazza, sempre minuscolo, @gmail.com, ovviamente solo per amanti della radio e della musica. No spam, please, scherzo. E niente, con questo brano finale dei Banco di Mutuo Soccorso, io vorrei fare un augurio speciale a tutte le persone che come me continuano a sognare e un invito a non lasciar mai andare quell'emozione istintiva che in qualche modo ci ricorda che siamo ancora vivi e che ci meritiamo un posto nel mondo. Ciao a tutti e alla prossima. Non mi svegliate, ve ne prego, ma lasciate che io dorma questo sonno, sia tranquillo. Da bambino, sia che puzzi del russare da ubriaco. Perché volete disturbarmi? Se io forse sto sognando un viaggio alato sopra un carro senza ruote, trascinato dai cavalli nel maestrale in volo. Pianto i miei occhi.